Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti, è arrivato il nostro momento. In regia è già pronto Peter Bescapè, in redazione come sempre Laura Vanossi. Adesso ci sono i temi del giorno. Piede dalla A alla Z. Influenza e malattie da raffreddamento, sai la differenza? Vivere con successo la cecità. Dalla punta dell'alluce al tallone, passando per le dita e l'arco plantare. Oggi protagonista della nostra puntata è il piede. È una bella occasione, credo, per occuparci di quelle che noi chiamiamo estremità e che spesso trascuriamo, incuranti un po' delle fatiche a cui sono sottoposte, gravate dal nostro peso che spesso non è piuma e rinchiuse in calzature più attente alla moda che al loro benessere. Allora questo è il loro momento, ascoltiamo la loro voce, i segnali che ci arrivano da laggiù, se i vostri piedi hanno qualcosa da dire, qualcosa di cui lamentarsi. Se volete saperne di più sulla prevenzione dei principali disturbi e anche sulle nuove tecniche chirurgiche, restate con noi, mettete i vostri piedi sotto i nostri riflettori, azionate con il vostro ditino il nostro numero verde che è 800 24 00 24. Potete come sempre mandarci messaggi al 349 238 6666. Oggi risponderà alle vostre domande e soprattutto ci aiuterà ad occuparci dei nostri piedi in modo più attento e rispetto del loro benessere il dottor Antonio Memeo, che è qua in studio con me. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Un po' influenzato. Sì, appena perché, ma è di anche, stagione. Sì, una malattia da raffreddamento più che l'influenza, ne esatto. Parleremo. Il dottor Memeo è ortopedico all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e responsabile del centro di ortopedia infantile. Dottor Memeo, spesso i nostri piedi non ci piacciono e ci sono persone che proprio si sentono in imbarazzo a mostrare i loro piedi. In effetti vedere proprio un piede bello è un po' difficile, poi lei che ne vede tanti, lei vede si vedono nei film e nelle pubblicità, vede? Ma non è solo il lato estetico, perché i piedi possono darci altri generi di problemi, ad esempio farci male oppure cambiare aspetto, forma. Le deformazioni del piede sono un capitolo importante della chirurgia ortopedica. A essere interessate sono in genere le dita, che possono cambiare forma, diventare un po' ad artiglio, a martello, oppure la classica cipolla, voi la chiamate allucinante. Valgo. Sì, la cipolla è la complicanza della luce valgo, che è una borsita in realtà la cipolla. I problemi sono tantissimi. Io credo che i tre quarti, in alcuni casi, di visite ambulatoriali di ortopedia alle volte siano per disturbi del piede. Quindi variano dalla punta fino al tallone, c'è tutta una serie di panoramiche che possiamo esaminare poi insieme con certo. Lei e dare delle risposte agli ascoltatori. Allora, dottore, facciamo un piccolo sommario. Dentro il sommario degli argomenti di cui ci occuperemo, il piede insomma, a seconda della lunghezza, ma comunque sempre fatto allo stesso modo. Sì, piccolo, grande che sia, partiamo dall'alluce e chiudiamo con... Già nell'embrione la forma del piede la si vede è benissimo quella. E le dita si contano anche in ecografia al quarto o quinto mese di gravidanza. Piccine. Senta, e allora proprio iniziamo dalle dita. Quali potrebbero essere i problemi? Ma i problemi di solito delle dita possono essere, a parte i problemi ungueali che sono molto frequenti, e qua si sconfina un po' nel campo dermatologico, quindi anche gli ortopedici devono saper indirizzare nel caso specifico allo specialista di competenza, per non curare cose che magari vengono interpretate come unghie incarnite o cose di questo tipo, quando in realtà poi si trattano di infezioni micologiche, quindi il classico fungo che si cura con una terapia medica. Sì, a ciascuno il suo mestiere. A ciascuno insomma. Il suo mestiere, quindi anche i dermatologi... Non la so dire in milanese, no, ma no, insomma, Non rubiamo, Ofele fa il suo mestiere. Ecco. Non rubiamo agli dermatologi il loro spazio. Poi ci sono invece disturbi da sovraccarico delle dita, le cosiddette, quelle che lei chiama giustamente, che la gente chiama dita d'artiglio, che tecnicamente si chiamano dita a griff, oppure ci sono il dito a martello classico, che è una complicanza dell'alluce valgo, in quanto l'alluce, quando spinge molto il primo dito verso il secondo dito viene a spostarsi e a incurvarsi verso l'alto, e questo è un disturbo molto fastidioso perché alle volte impedisce addirittura di portare delle calzature normali, quindi certo. Ci sono dei pazienti che devono assolutamente alle volte fare delle calzature su misura. Dottore, vorremmo anche occuparci di quella che voi chiamate metatarsalgia. pedalgia, in pratica è il dolore che noi proviamo in quella parte del piede su cui ci appoggiamo quando proviamo a metterci in punta di piede. Esatto. Anche lì è una zona un po'... Questa è una zona un po' delicata, esistono diversi tipi di metatarsalgia, c'è la metatarsalgia ad esempio dello sportivo, dell'atleta, del maratoneta classico che qualche volta può sconfinare nella frattura da stress, c'è la metatarsalgia dei ballerini di cui non ne parlo perché poi forse interverrà qualcun altro che ne sa più di me. Sì. Esistono invece poi le metatarsalgie da sovraccarico che sono molto frequenti nelle donne in fase di pre-post menopausa, nelle quali pare che interessi anche un cambiamento ormonale che fa allargare la volta plantare, e quindi è un argomento veramente molto importante questo. Quindi parleremo anche di questo e anche della pianta del piede. La pianta del piede è la famosa tecnicamente fascite plantare, che qualche volta è complicata dalla spina calcaneale. Di cui abbiamo parlato ieri. I nostri ascoltatori sanno esattamente ormai la definizione. Qualcuno ha vinto anche un premio. Sì, ha ricevuto a casa un libro. E poi il tallone. Il tallone, i disturbi del tallone sono dei disturbi d'appoggio, senza sconfinare poi nei disturbi di malformazioni congenite del piede, però oggi di questo credo che non ne parleremo. Allora, per prepararci a centrare bene il nostro problema e soprattutto per riuscire a recuperare le informazioni necessarie per chiedere una consulenza, un aiuto, un consiglio al dottor Memeo, proprio insieme al dottor Memeo abbiamo preparato questa scheda. L'ascoltiamo insieme, provate a vedere se vi dice qualcosa di più, se vi fa, se vi mette in condizione di aggiungere magari quel dettaglio che potrebbe fare la differenza. Sentiamo. Il piede ti fa male in appoggio, quindi quando cammini o carichi il peso, oppure anche quando sei a letto, oppure comodamente disteso in poltrona o seduto alla scrivania. Quando ti lamenti dei tuoi piedi, lo fai perché avverti dolore nella parte anteriore, quindi nella zona del metatarso, o invece sono le dita o un dito in particolare a farti vedere le stelle? Anche per te, come per Achille, il tallone è un punto delicato? Dolente? Ma il dolore che avverti è fisso o si irradia? Aumenta con il carico o è sempre uguale? Diamo un occhio anche alle dita. Anche se non le trovi belle, raccontaci se sono al loro posto e hanno una forma adeguata. Restate con noi, il dottor Memeo è in nostra compagnia sino alle ore 12. Dottore, da che cosa cominciamo? Cominciamo dalle dita. Sì. Perché io vorrei occuparmi, nella nostra scheda non l'abbiamo proprio specificato, ma di un dolore acutissimo che avvertono alcune persone alla base del terzo e del quarto dito. Può essere all'improvviso violento mentre camminiamo, che ci costringe a toglierci la scarpa, almeno vorremmo farlo, non sempre riusciamo. Poi sembra passare, ma si ripresenta e diventa più costante, ma non meno invalidante. Ha un nome specifico. Sì, ha un nome specifico che è neuroma di Morton, che è una neuroma di Morton praticamente è una, in termini semplici, è una piccola cisti del nervo interdigitale, quindi è una dilatazione di questo nervo. Alle volte dà un dolore come quello che ha descritto lei, dà delle parestesie, cioè dei formicoli alle dita del piede, particolarmente irradiati al terzo e quarto dito. Quindi se il terzo e il quarto dito sono un po' il vostro punto debole, se avvertite dei formicoli o anche questo dolore a volte così intenso, chiamateci 800 24 0024, messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. E a proposito di piedi, quante volte le nostre nonne si sono raccomandate di tenere bene i piedi al caldo per non beccarci un raffreddore? Ma raffreddore per noi è qualcosa che è un po' a cavallo, è un sintomo comune sia alle malattie da raffreddamento che all'influenza, ma non sono la stessa cosa. Ne parliamo oggi insieme al professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, alias nostro influenzologo preferito. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ormai siamo in stagione, quindi ci si sente spesso per forza di cose. In effetti questo richiamo delle nonne ha un suo senso, in quanto è possibile attraverso appunto un cambiamento di temperatura, uno sbalzo termico subito per esempio con un pediluvio anche caldo, ma che poi comporta una variazione di temperatura corporea, per facilitare la vita a tutti questi virus vari che causano forme simili influenzali, sono adenovirus, rinovirus, coronavirus, metapneumovirus, nomi variegati per tanti virus che ci colpiscono più volte nella vita. Professore, però tra la malattia da raffreddamento e l'influenza ci sono delle differenze? Infatti, la vera influenza, giusto per differenziare dal resto, si riconosce per essere la forma più pesante, quella che ha sia i sintomi respiratori, tosse, mal di gola a volte, ma soprattutto tosse secca, ma soprattutto febbre elevata e un senso di stanchezza, di abbattimento tipico della vera influenza che la caratterizza. Tutte le altre forme, che in particolare in questa fase di inizio stagione già ormai emergono in modo frequente e intenso, hanno combinazioni diversificate, per cui una volta subiamo quello che è solo un raffreddore, quindi un naso chiuso, un naso che cola, altre volte anche starnuti, a volte anche un po' di febbricola, e spesso in queste forme, e non mai nell'influenza, anche sintomi gastroenterici come nausea. Professore, ma veniamo un po' alla cura. Sempre rifacendoci alle nostre nonne, suggerivano letto, lana e latte? Infatti, beh, il latte non fa male, nel senso che comunque sia aumenta l'espettorazione, una facilitazione appunto nella facilitare quello che è poi l'effetto positivo dell'espettorazione. Diciamo qualcosa di caldo. Di caldo, esattamente. Questo anche per una compensazione, che male non fa in questi casi, perché comunque sia, anche se queste forme non sono così gravi, ci abbattono un po', perché un po' di depressione, un po' di malinconia la facilitano poi in questi periodi anche così di cambio meteorologico, questi effetti si combinano in senso negativo. Però quello che c'è da fare purtroppo è poco, non è ancora, non ci sono vaccinazioni per questo, ribadiamo però, per esempio, fra poco, quando sarà il momento, ci si può comunque vaccinare contro l'influenza anche se si hanno questi sintomi, perché non c'è nessuna controindicazione né collegamento se si hanno questi strascichi. Ma al di là di questo, per il trattamento di queste forme ci vuole, dal punto di vista pratico, quella che è l'automedicazione responsabile, cioè una serie di provvedimenti che vanno da un'alimentazione corretta con un incremento di vitamine all'uso, se c'è bisogno, di sintomatici, cioè di farmaci da banco, quelli riconoscibili per un bollino rosso, che riducono l'intensità dei sintomi. Ma è importante usarli con giudizio, quindi responsabilmente, facendo sì che si attenuino solo i sintomi ma non li si azzerino, per poter seguire l'andamento della malattia e in alcuni casi, se ci sono complicanze, soprattutto nei soggetti fragili, allora sì, rivolgersi al medico che prescriverà, e solo in questo caso, l'uso di antibiotici. Professor Pregliasco, io la ringrazio per essere stato con noi, la sentiremo presto, perché questa è proprio un po' la sua stagione, professore. infatti a breve con l'influenza arriva anche lei. La campagna vaccinale, poi speriamo una bella influenza, perché io ho dato queste indicazioni e vedremo se purtroppo saranno confermate come temiamo. Grazie professore, speriamo di no comunque. A risentirci presto, buona giornata. Arrivederci. Pronto soccorso. Piede, questo è il suo momento, è il tema della nostra puntata di oggi. Il nostro numero verde è 824 0024, se avete le mani libere. Messaggi al 349 238 6666. Ci ha raggiunto, come in parte aveva già anticipato il nostro dottor Memeo, il professor Walter Albisetti, associato all'Università degli Studi di Milano e ortopedico del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Ciao Walter. Ciao. Professore, noi oggi vorremmo dividere un po' i vostri ruoli. Con lei temporeggeremo, nel senso che a lei ci affideremo per capire che cosa si può fare quando ci è arrivata una diagnosi prima di o per evitare il ricorso al bisturi. Mentre con il dottor Memeo gli facciamo fare la parte di quello più, cattivo, tra virgolette, cattivo, ed entreremo più aggressivo, giustamente, ed entreremo in sala operatoria, perché ci sono anche delle novità importanti. Gli interventi nel tempo sono cambiati, per fortuna sono meno invasivi, e quindi questo ci solleva un po' il cuore. Andrei, vorremmo occuparci delle dita, ma ho già i miei ascoltatori che mi suggeriscono qualche spunto, ad esempio Bruno da Bolzano. Sentiamo che cosa ci racconta. Benvenuto Bruno. Buongiorno signora e buongiorno ai suoi illustri ospiti. Senta, a me mi è successo che nel mese di agosto, io premetto, devo dire il lavoro che faccio, io sono un poliziotto, nel mese di agosto ho fatto un viaggio in macchina di 600 chilometri, sì. E all'arrivo al posto di destinazione mi accorgo che mi davano dei fastidi, dei dolori, io, sai, ero un po' confusionaria la cosa, mi sembravano tutte e cinque le dita del piede. Tutte e cinque le dita del piede. Al che ho detto va bene, forse sarà stata la frizione della macchina, il viaggio, e nel tempo succede che mi faceva male il terzo dito. Sì. E poi premendo specialmente. Adesso questo dolore, ad esempio, non è che ho un dolore fisico che la notte mi fa male, oppure no, assolutamente, delle volte fa male, delle volte scompare. Quello che però adesso ho notato da un po' di giorni, sotto l'inizio dell'attacco delle dita dei piedi, e se io metto determinata scarpa sento come se fossi che c'è un rialzo. Sì. Se invece metto delle scarpe di queste, purtroppo anche di marca, sì, però le fa male, se diciamo lo sento meno. Allora Bruno, chiediamo subito al professor Albisetti un consiglio. Che cosa può essere successo al piede di Bruno? È stato troppo sollecitato? Potrebbe essere stato troppo compresso dalla scarpa, cioè non è tanto quanto il piede sulla frizione, quanto magari la scarpa che poteva essere un pochino stretta, o perché si è gonfiato il piede per la posizione, oppure perché la scarpa è stata contentiva un po' troppo. Quindi una metatarsalgia, e quindi i sintomi che lui dà sono abbastanza caratteristici. In poche parole, o è il nervo che rimane così incongruente, cioè nello spazio tra i metatarsi, quelle ossicine che tengono la volta anteriore del piede, oppure i metatarsi che sono avvicinati. Quindi anche questi sintomi nevralgici, che ci sono, non ci sono, con una scarpa, con un'altra scarpa, sono abbastanza caratteristici. E che si fa allora? Si cambia scarpa, si mette un plantarino, si prende un antinfiammatorio, ci si massaggia il piede? Tutte professore, le cose che lei ha detto contemporaneamente, nel senso che allora una scarpa idonea, una scarpa quindi con un plantare, oppure anche semplicemente con una suola, una soletta che ammortizzano i colpi, una scarpa quindi che contenga bene il piede senza né essere troppo larga né meno stretta, proprio contentiva, e in caso acuto l'antinfiammatorio ha un senso. Il massaggio in questo caso ha meno senso perché è una situazione acuta. Anche se un massaggio ai piedi sicuramente fa benissimo, sì, il massaggio no, al piede fa bene al cervello sempre. Arriva proprio al cervello, come il dolore al piede, Allora, ci sono già tanti sms, vorrei tornare a parlare di questo neuroma di Morton, di questo dolore di cui avevamo accennato insieme al dottor Memeo, ma ci scrive Giovanna: ho il mignolo che tende ad accavallarsi sul quarto dito, per il momento non mi dà problemi a parte estetici, ma poi, dottor Memeo. Beh, dipende quant'è l'accavallamento. Se l'accavallamento è modesto non ci sono problemi, lo può tenere, deve solo portare una scarpa che non le dia fastidio. Se invece l'accavallamento diventa importante, bisogna fare un intervento correttivo per rimettere il dito nella sua posizione originale. Di fronte a queste situazioni, professor Albisetti, bisogna scegliere delle scarpe particolarmente comode, perché le scarpe sono considerate uno dei nemici, se non hanno le caratteristiche idonee, dei nostri piedi. Quindi una persona che tende ad avere dita che si accavallano, anche se non provocano ancora dolore, quali calzature deve scegliere? Evitare quelle a punta, immagino. Sì, siccome le scarpe, diciamo, tra virgolette, possono essere nemici dei nostri piedi, anche i pavimenti duri che non ammortizzano sono nemici dei nostri piedi, spesso non ci pensiamo. Tornando al discorso di prima, per quanto riguarda la metatarsalgia di Morton o meno, dove c'è un interessamento principale del nervo, come le dirà il dottor Memeo, allora è ipotizzabile la parte chirurgica. Sì. Dove invece è soltanto un'irritazione del nervo, ecco quindi che ci sta la terapia non chirurgica, plantari o che altro. In questo caso del dito che tiene a sovrapporsi, spesso è il metatarso che cede e quindi la falange, cioè sarebbe proprio il dito vero e proprio è la falange, si alza. Quindi è necessario alzare un attimino, un pochino prima di dove appoggia la testa il metatarso, e compensa bene il problema. Per ricreare una sorta di equilibrio. Ricrea un arco anteriore che è perso. Dottor Memeo, ma ci sono casi in cui entra in azione lei? Entra in azione in chirurgo. Nei casi, come ha detto giustamente il professor Albisetti, prima si tenta sempre una terapia non cruenta, e quindi è corretto fare queste cose. Quando invece si arriva a pensare, sia nel caso di neuroma di Morton, sia ad altre situazioni chirurgiche, è chiaro che prima bisogna fare anche degli accertamenti diagnostici. Quindi nel caso del Morton è indicato fare in prima istanza un'ecografia, sì, e il neuroma si vede quando supera almeno un millimetro di diametro, sì, perché sennò non si riesce a vedere. È una specie di pallina. Ho sbagliato, 10 mm sì, di diametro. È una specie di pallina. È una specie di pallina, sennò anche chirurgicamente non si riesce ad asportare, certo, nulla, quindi deve essere almeno un 10 mm. In qualche caso non è sufficiente l'ecografia, si ricorre alla risonanza magnetica. Mm. E poi, come diceva giustamente Albisetti, non è che si interviene drasticamente subito. Se una fase irritativa la si cura, se la fase irritativa permane si fa l'intervento chirurgico. Abbiamo Anna da Isernia. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Anna, senta, io ho Peter Bescapè che mi dice che è arrivato il momento di, veramente lo so anch'io, di segnalare l'appuntamento con i mercati finanziari, poi abbiamo il meteo. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo Anna che ci chiama di Isernia. Anna, buongiorno. Anna? Sì, pronto, mi sentite? Sì, Anna, buongiorno. Allora, buongiorno, buongiorno a voi. Il mio problema è questo. Da circa un mese, al piede destro, è come se sentissi sotto la pianta del piede una scottatura, però a guardarlo non c'è assolutamente niente. Mm. E da qualche settimana il problema si è presentato anche all'altro piede. Sì, sì. Allora... Quindi, Anna, una scottatura vuol dire che avverte un dolore simile più a un bruciore? Perfetto. Sì. Anna, io direi, dottor Memeo, quando noi parliamo di dolore alla pianta del piede, bisogna dire al medico anche qualche cosa in più. Sì. Quando ci viene, dove, non solo dove è localizzato, se si è radio e fermo, ma anche... Beh, se viene innanzitutto quando uno cammina, quindi in una posizione dinamica, quando uno è fermo in piedi, quindi statico, o se è un dolore che... è presente sia camminando che stando fermi e sia anche a riposo, perché può orientare la diagnosi per Anna, il medico. Anna è andata, no, ha messo giù molto, non ci ha dato un'indicazione in più sicuramente di questo. Quindi se avete dolore alla pianta del piede, cercate di capire se lo avvertite di più quando camminate, quando state fermi, o anche a riposo. O anche di notte o al risveglio anche. Ecco, allora, pronti per rispondere a queste domande, ci metterà anche lo zampino, penso, in questo dolore, quella famosa spina di cui abbiamo, esatto, parlato ieri, che è una, sì, specie di gomito del tennista nel piede. Esatto, praticamente, ecco, è un bellissimo esempio questo, perché è praticamente una patologia inserzionale del tendine della fascia plantare, che si vanno ad inserire al di sotto del calcagno e creano con la loro trazione su questa spina, che è il punto di inserzione, la tuberosità calcaneale, creano dei micro depositi qualche volta di sali di calcio che fanno aumentare le dimensioni di questa spina. Allora, se questo è il vostro problema, se vi fa male alla pianta del piede, chiamate 824 0024 nell'attesa delle vostre chiamate. Andiamo a sentire che cosa c'è di nuovo che arriva dal mondo della medicina e della ricerca. Le notizie sono commentate con noi e per noi oggi dal professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. La vitamina B12, che si trova nella carne, nel pesce, nel latte, potrebbe avere un effetto protettivo contro la perdita delle funzioni cerebrali negli anziani. Lo hanno visto ricercatori dell'Università di Oxford. Hanno esaminato 107 persone di età tra i 67 e gli 87 anni, con un attacco del cervello e con dei test della memoria, e poi hanno misurato i livelli di vitamina B12 nel sangue. Questi ricercatori hanno scoperto che nelle persone con i più alti livelli di vitamina B12 il volume del cervello si riduceva molto meno nel tempo rispetto a quello delle persone con bassi livelli di vitamina B12. Incoraggiare il consumo di cibi ricchi di vitamina B12, per esempio il pesce, negli anziani è importante per prevenire l'atrofia del cervello e i problemi di memoria connessi con l'invecchiamento. Le malattie a trasmissione sessuale come herpes genitale, gonorrea, sifilide, clamidia o le infezioni vaginali da funghi favoriscono l'infezione da HIV. Il meccanismo biologico non è stato mai del tutto chiarito, ora uno studio di ricercatori olandesi propone una spiegazione. I ricercatori hanno messo a punto un modello sperimentale di trasmissione del virus utilizzando dei frammenti di pelle umana studiati in provette. Nella pelle il virus HIV viene catturato da certe cellule immature del sistema immune, che devono poi trasmetterlo ai linfociti T, un passaggio essenziale per lo sviluppo della malattia. Se la cute è perfettamente sana, questo passaggio è scarso, inefficiente, e quindi il rischio di infezione da HIV è basso. Se invece le cellule del sistema immune, si chiamano cellule di Langerhans, sono già attivate da uno stimolo infiammatorio, come quello che viene da un'infezione a trasmissione sessuale precedente, il trasferimento del virus HIV ai T linfociti è molto facilitato. In linea con noi abbiamo Cinzia da Ascoli Piceno. Cinzia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Buongiorno a voi. Io mi è stata diagnosticata una fascite plantare nel mese di aprile. Sì. Per via di questa arcata molto pronunciata mi hanno dato un plantare, mi hanno prescritto, che sto portando nel periodo estivo, non ci sono riuscita. Sì. Ho avuto forte dolore prima ad un piede e poi ad un altro, e ho fatto ultrasuoni, bacinelle galvaniche, però non mi ha risolto assolutamente il problema. Quindi, ancora dolore. Cinzia, sentiamo che cosa le suggeriscono i nostri esperti. Cade proprio a fagiolo la domanda di Cinzia, e un'esperienza direi non tanto positiva, nonostante il plantare, nonostante le onde d'urto. Allora, dottor Memeo, professor Albisetti, mettetevi al lavoro. Allora no, prima due cose io, poi lascio la parola anche ad Albisetti. Ci sono ancora due o tre cosine che può tentare di fare. Posto che la diagnosi sia corretta, ovviamente lo diamo per scontato. Ma come si fa a fare diagnosi? Si fa una diagnosi clinica, assolutamente, sì. Poi si deve fare una radiografia del piede innanzitutto, soprattutto nella proiezione laterale, nella quale si vede molto bene il calcagno e l'eventuale spina, e un'ecografia della pianta del piede per vedere lo stato infiammatorio del tendine. Quindi non si dovrebbe sbagliare, no? Dovreste prendere. Assolutamente sì. E dopodiché si possono fare altre cose, si può fare anche qualche infiltrazione in qualche caso specifico, che si può fare sia con i corticosteroidi, cioè il cortisone, sì. Oppure anche esiste la possibilità di fare delle infiltrazioni con l'acido ialuronico, sì. Che è un lubrificante, quello che usano anche in chirurgia estetica, sì. Però ha un peso, è la stessa cosa, ma ha un peso molecolare diverso. E l'acido ialuronico può funzionare bene nel contesto delle guaine tendine. Abbiamo delle grosse esperienze fatte soprattutto dai colleghi veterinari, sì. Sui cavalli da corsa, poco in medicina, sì. Umana, ma di più in medicina veterinaria già dagli anni 70 addirittura. Sì. Esistono le onde d'urto, o se no sentiamo Albisetti cosa può dirci su eventuali tutori diversi. Professore, plantari? Ma io aggiungerei una serie di cose. Quando prima giustamente dicevate, quando si va dal medico bisogna dire dove, come, quando è il problema. Classicamente la fascite plantare, il paziente ti racconta che quando si alza al mattino dal letto sembra che abbia due piombi al posto di avere i piedi. E ci sta, perché quando si dorme il piede non è a 90 gradi, quindi appena uno appoggia la pianta del piede al suolo, tira, sì. Meccanicamente tira, e senti proprio il discorso del gomito del tennista. Sì. Tira, ti dà fastidio e senti male. E questo è importante. È importante quindi la radiografia in carico, secondo me la proiezione laterale, per capire anche come è fatto l'appoggio del piede. Io in più faccio fare anche degli esami del sangue, in particolar modo l'uricemia, perché certe volte ci sono questi valori di acido urico un po' borderline, e questo sì. È sotto l'aspetto diagnostico. Sotto l'aspetto terapeutico, oltre a quello che diceva il dottor Memeo, importante in questo caso è il massaggio. Oh, perché viene dalla il massaggio, mia. Arriviamo qua. Dove io ho una patologia inserzionale, come può essere questa, tra virgolette, spina calcaneale o fascite plantare, io devo detendere l'arcata. Detendendo sì. L'arcata lo faccio con un massaggio, che poi sia il massaggio reflessologico, sia il massaggio decontratturante, questo è un altro discorso. Sì, però c'è un massaggio. Perché io devo allungare concettualmente. Sì. Poi si parla di onde d'urto, è vero, ma le onde d'urto ci sono a bassa potenza, ad alta potenza, media potenza, quanti colpi al minuto, cioè è un panorama molto ampio. In questo caso solitamente si fanno le bassa potenza e a 2.500-3.000 colpi al minuto, si dice così in gergo. E poi, la cosa importante, modificare l'appoggio, perché di fondo ci sta sempre un appoggio che alterato, tra virgolette, in cui quindi, punti di appoggio scusi, sono dati. Il plantare, vuol dire che il plantare caso, fa... Il plantare in questo caso fa, ecco, ma anche qua, mi perdoni, il plantare, che tipo di plantare? No? Può essere con uno scarico metatarsale, con rinforzo della bisogna, volta. Bisogna, perché cuneo. Infatti il plantare deve essere fatto su misura, ovviamente. Proprio come un abito su misura, deve calzare a pennello, a piede. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo Andrea, ci chiama dalla provincia di Milano, 824-0024, Andrea buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre in viaggio. Grazie. Senta, la mia domanda allo specialista è questa: è un bimbo piccolo di 5 anni che l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ha avuto la classica sindrome di piedi piatti, cioè lo specialista ha detto che aveva i piedi abbastanza piatti, e abbiamo preso solette e solettine, scarpe apposta di una certa qualità, e il problema si è risolto, adesso la postura è giusta. Il problema è che il bimbo quest'anno, come tanti suoi coetanei, ha voluto fare calcio, la scuola calcio, 5 anni. Volevo chiedere al dottore, le scarpe da calcio sono un po' particolari dei bambini, è consigliabile che faccia uno sport di questo tipo? Lui è contento, male ai piedi non ne fa e deambula bene, tutto sommato. E fa anche gol? Va bene, allora il padre sa... Ci sono comunque, ad esempio, degli sport consigliati, non so, nuoto piuttosto che a queste età per i bimbi. Grazie Andrea, doppia risposta. Doppia prima risposta. Dottor Memeo, la prima un po' polemica, che se il piede piatto è andato posto a 5 anni non era un piede piatto, per cui era probabilmente una evoluzione fisiologica della crescita nella quale tra i 2 e i 5 anni è normale che i bambini abbiano i piedi un po' piatterelli, e quindi in questi casi non si fa nulla, e quindi ben per lui. Calcio fa bene, può fare qualsiasi sport senza nessuna limitazione. L'unica cosa, bisogna stare un po' attenti col calcio ai terreni sintetici, perché purtroppo anche adesso c'è la tendenza anche nei bambini di farli giocare sui campi sintetici, che possono dare qualche problema ai piedi. Sia ai bambini sia a chi non è più bambino, perché questi tacchetti rigidi sui campi sintetici, professor Albisetti, danno qualche problema? No, con il dottor Memeo, lo lasciamolo giocare, che a 5 anni è giusto giocare. Tanto più che se fa un esercizio su un terreno morbido, rinforza, se mi permettetemi il termine, la muscolatura proprio del piede, e quindi va solo bene. Allora, per Andrea, quindi, via, insomma, alleverà questo campioncino. Può fare anche danza, perché... Può anche fare danza, vero, professor Albisetti? Sì, la danza, diciamo in particolar modo la danza classica accademica, risolve molti problemi di questi chiamati paramorfismi del piede, no? Questi atteggiamenti del piede. Un po' piattini? Un po' piatti, la viene chiamata sindrome pronatoria o retropiede valgo, quello che è. Ci sono degli studi scientifici fatti di rilevazione, che si vede come il 70-80% diminuiscono. Perché? Perché si fa ginnastica al piede. È vero. C'è una ginnastica al piede che lei consiglia anche per sia da far fare ai bambini? È vero che è bene farli, ad esempio, camminare un po' sulle punte, farli prendere, afferrare magari con le dita dei piccoli oggetti, insomma, far lavorare i piedi dei bambini? E se questi esercizi sono utili per i bambini, servono anche noi, che bambini non siamo più? Sicuramente sì, lei parlava di danza prima, la danza si cammina sulle mezze punte, si fa l'esercizio, eccetera. Quindi camminare sulle punte dei piedi, cioè quindi sulle mezze punte, come si suol dire, fa degli esercizi. Camminare anche a piedi scalzi su terreni morbidi dove è possibile, utilizzare magari degli zoccoli, quindi e non trascinare il piede, quindi grippare, no? Come si suol dire, con le dita per non trascinarlo, sono esercizi che vanno bene sia nel bambino che nell'adulto. Andiamo a Roma, ci aspetta Francesco, 824-0024. Francesco, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Io faccio una premessa, ho un arco plantare molto pronunciato, vado in bicicletta a livello amatoriale e dopo un paio d'ore avverto un forte dolore al metatarso, e poi la conseguenza è che le dita dei piedi, soprattutto quelle due centrali, si addormentano, quindi mi devo fermare, devo slacciare la scarpa, muovere un po' il piede, riattivare la circolazione e poi ripartire. Ecco. Allora, io devo dire che dalle cose che ci avete detto forse la risposta mi verrebbe, però non posso fare la balanzona. Dottor Memeo, approfitto di lei. No, la risposta in parte l'ha già data lui, si ferma e toglie la scarpa. Anche a me ha lasciato... non vorrei che la pedalina, io non sono un grosso esperto di ciclismo, però non vorrei che la scarpa apposta da ciclismo smontata sul pedale non sia corretta, quindi potrebbe valutare se è il caso di cambiare la scarpa che viene montata sul pedale. Questa è una cosa importante. Poi potrebbe avere comunque di tutto, potrebbe avere quando c'è un piede cavo ci sono le metatarsalgie da sovraccarico, quindi plantari o quello che abbiamo detto. Se le dita si addormentano, rientriamo nel vecchio discorso di qualche minuto fa sul neuroma sul neuroma di Morton e quindi potrebbe avere tutte queste cose. Allora, io ringrazio i miei ospiti che ci hanno veramente dato una mano a prendere in mano i nostri piedi. Professor Albisetti, grazie. Torneremo a parlare perché sono arrivati tanti messaggi, tante richieste sulle calzature per i bambini, le calzature per i piedi dolenti e doloranti, e quindi ci sentiremo presto. Grazie professor Albisetti. Grazie a voi. Dottor Memeo, io non la saluto adesso perché lei rimane in studio con noi, e in linea abbiamo una mamma. È una mamma non vedente, perché noi ogni giovedì della Giornata Mondiale della Vista, che si è celebrata giovedì 9 ottobre scorso, abbiamo deciso di dare spazio alle storie di chi, pur non vedendo, non è rimasto al buio, non si è fatta abbattere dall'handicap. In linea con noi abbiamo Marilena, mamma di un bambino di 9 anni. Marilena, ciao, benvenuta. Sì, buongiorno, ciao, ciao. Buongiorno. Senti Marilena, un bambino che insomma grande, ormai ha 9 anni, tu mi raccontavi che insomma è un po' non è stato difficile per voi crescerlo, perché il tuo bambino senza dirglielo ha saputo starti vicino, ha saputo, come dici tu, farti vedere. Sì, certo, non è stato difficile, anche perché io sono non vedente, anche mio marito. Sì. Quindi ci siamo posti all'inizio un po' il problema di come rapportarci col bambino, che lui per fortuna vede, sta bene, è un bambino normalissimo e felice. E niente, fin da piccolo ha avuto una sensibilità, il bambino ha intuito da solo, cioè lui si rapportava con me, magari mi diceva mamma guarda, però usava il termine guarda, ma mi prendeva la mano e me la posizionava su ciò che mi voleva fare in quel momento vedere. E poi successivamente, man mano che cresceva, si è reso conto sempre di più, al punto tale che è un bambino molto autonomo, sereno, e quindi io non ho dovuto dirgli nulla, ma anche perché poi noi ci scherziamo molto sul fatto dell'handicap, cioè non drammatizziamo, cioè con lui ne parliamo, però anche sotto forma di divertimento, che ne so, magari anche sotto forma ironica, ecco, siamo ironizziamo molto su questa cosa. Che cosa gli dite ad esempio? E ad esempio quando lui adesso ultimamente prende la PlayStation e mi dice mamma guarda sto arrivando primo, mamma, dico ah sì Mattia, infatti ho visto, sai, io non vedo, però comunque il rumore della macchina mi sta facendo capire che sei bravissimo, ma perché non vedo, ma comunque ti c'è rido, magari il padre gli dice ma cosa vuoi Mattia se non ci vedo nulla, cosa vuoi che ti, però cioè, scherziamo, e lui dice ah già ti dimenticavo, tu non ci vedi, però anche lui ride, cioè non ne fa un dramma, ne parla anche con i suoi coetanei, con i bambini, quindi io come mamma ho avuto un'esperienza molto positiva e continuo a condividerla con mio figlio, e quindi non necessariamente bisogna avere la vista per vivere un rapporto sereno col proprio figlio, insomma. Marilena, grazie per essere stata con noi. Il nostro viaggio con le storie di persone non vedenti che con la loro esperienza ci insegnano comunque qualcosa continua ogni giovedì. Marilena, grazie, un bacio al tuo bambino. A voi. Grazie. Dottor Memeo, adesso la saluto davvero. Noi ci sentiremo presto. Auguro una buona giornata a lei e a chi ha ascoltato Essere Benessere. Appuntamento per noi domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone e dottor Memeo. Grazie a tutti e arrivederci. Buona giornata.